as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, il pane e le rose. Farò un'introduzione e anche delle conclusioni molto veloci, perché questa puntata c'è stata una presentazione dell'ospite che abbiamo, importantissimo, uno degli ospiti più incredibili che abbiamo mai avuto in questi ultimi 5 anni al pane e le rose. Sono veramente contento di averla intervistata, di averla in parte conosciuta. Diciamo che oggi abbiamo Nemesi, una lavoratrice, poi la presenteremo nell'intervista, è una sorpresa. Adesso ascoltiamo uno dei pezzi che lei ci ha consigliato, che lei credo che usi forse nei suoi spettacoli, visto che mi ha chiesto lei di metterlo. Poi metterei anche un altro pezzo che lei tiene molto alla fine della puntata e ci sentiamo per conclusione. Ascoltate questa intervista, non ve la perdete, è un'intervista incredibile, una sorpresa per tutti gli ascoltatori del Pane e Rose, ok? Mi raccomando. Allora, ecco, oggi, come vi avevo già anticipato, al Pane e Rose affronteremo e parleremo con una lavoratrice, una gran lavoratrice. Abbiamo qui con noi in radio Nemesi. Oggi siamo in radio, non siamo né in strada né da me in casa, oggi siamo in radio perché puntata non speciale, di più, specialissima, con Nemesi, un artista, una donna giovane, che insomma una chef. Sai anche molto bene cucinare, visto che chi mi hanno detto che sei molto molto brava. Grazie. Okay. Lei è una chef, però oltre ad essere una grandissima chef, tu lavoravi da fico, poi parleremo oggi proprio di questo, che lavoravi da fico, oltre ad essere una chef, sei anche una pornoattrice. Sì, esatto, infatti oggi mi presenti con il mio nome d'arte. Certo, tu sei Nemesi. Esatto. Ok, potete trovare sui social, cercate Nemesi, vedo. Trovate solo me, sì, è facile. Non ecco, è... la trovate e la cercate. E dunque, questa persona che per me, io sono rimasto scioccato quando ho scoperto che tu eri una pornostar, ma anche una chef, perché tu lavori da fico, dove io sono stato, e devo dire che sono rimasto sorpreso, perché non mi aspettavo questo, il fatto che tu fossi anche una pornoattrice. Allora, la prima domanda che ti faccio è: come riesci a coniugare, visto che tu non è che hai non hai lavorato in un piccolo ristorantino, lavoravi al Grand Tour in cui ci sono passate migliaia di persone, una pornostar che sta in cucina al Grand Tour, cioè come sei riuscita insomma a vivere la tua vita tranquillamente, a svolgere entrambi questi lavori, perché tu li fai tutti e due. Sì. Poi adesso di recente il mio contratto si è concluso, però insomma io negli ultimi 5 anni e mezzo ho lavorato in maniera continuativa all'interno del Grand Tour Italia, prima per Sfogliamo, che era una società cooperativa che stava all'interno, che produceva pasta fresca oltre che averne il ristorante, e successivamente invece passai all'interno Siciliamo, che invece gestiva tutta la parte di pasticceria e di ristorazione per la Sicilia, e poi successivamente aveva preso anche lo spazio della Calabria. Come faccio a coniugarlo? Che non dormo. Non dormo. E poi vabbè, allora l'ultimo anno c'è da dire una cosa: all'interno del Grand Tour Italia si stava aperti dal giovedì alla domenica, quindi comunque questa cosa mi ha sempre dato la possibilità di avere dal lunedì al mercoledì abbastanza liberi. Questo non valeva quando io avevo iniziato, perché per Sfogliamo lavoravo 6 giorni su 7, e quindi ammetto proprio a mani basse che ho passato forse quasi 2 anni impazzendo, ecco, magari a sacrificare i miei giorni liberi per poterne avere poi 2 attaccati la settimana successiva, con tanti compromessi, magari viaggiando di notte per poter essere, che ne so, alle 6 del mattino a Milano, fare lo shooting alle 7 e essere per mezzogiorno già di nuovo a prendermi il treno e tornare al lavoro. Quindi bene o male mi sono gestita così, fino a che non ho avuto, ovviamente salendo di grado, di livello, di importanza, un po' più del mio tempo libero sostanzialmente. Tu nasci chef, nel senso che hai studiato, oppure è la tua passione quello che hai fatto? No, io ho studiato tutt'altro, okay. Sono laureata in antropologia, religioni e civiltà orientali. Ah, e stavo finendo una specialistica in orientalistica e in archeologia orientalistica, insomma. E, non ho conclusa perché poi nel mentre appunto inizio a lavorare in cucina, un sogno che in realtà è sempre stato nelle mie corde, che ho sempre voluto fin da bambina, e che appunto decisi serenamente appunto di lasciare lo studio per continuare quella che era la mia passione principale, che era davvero la cucina. Successivamente, 1 anno e mezzo dopo, per caso, sempre, un po' come anche la cucina, perché c'entrai facendo Just Eat, nel porno c'entrai banalmente perché era una serata tra scambisti e mi fecero questa proposta, io accettai e iniziò il mio viaggio sostanzialmente, perché da cosa nasce cosa, da scena nasce scena, contatti, persone, ed eccoci qua ad oggi. Io ti volevo chiedere, adesso si è interrotto il tuo rapporto al Grand Tour. Sì, esatto. Ma io ti ho seguito sui social, perché in realtà ho seguito tutta la vertenza che c'è stata al Grand Tour. Che il Grand Tour fondamentalmente sta chiudendo. Dimmi tu. Allora, dovremmo chiederlo al Grand Tour se sta chiudendo o meno, visto che gli è piaciuto così tanto nascondere questa cosa agli operatori. È abbastanza divertente, perché appunto io nasco come cuoca all'interno di Fico e gli devo tutto. Attenzione, l'esperienza e la pazienza. pazienza che ho dovuto avere anche per i clienti, che credo che insomma siano abbastanza impegnativi in quel luogo per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche la parola di tantissimi altri operatori. Ho dovuto lottare con quelle che erano delle scelte organizzative pessime, pubblicità inesistenti, promesse e, come si può dire, futili, no? Che non sono state date soltanto anche da Farinetti stesso, attenzione, non è soltanto lui quello che si diverte a sparare cifroni, ma lo è stato anche Fico stesso e poi successivamente il Grand Tour per come si è comportato con noi operatori. Poi io sono dipendente, attenzione, certo, ero dipendente, quindi parlo un po' più a favore di quelli che sono stati i miei capi, che può sembrare per assurdo un po' nella ristorazione, no? Perché normalmente il tuo capo ogni tanto è anche la tua prima crisi esistenziale, che in parte magari può essere anche stata soprattutto con Sfogliamo, però era inevitabile anche vedere questo atteggiamento irrispettoso verso appunto di noi, del non dirci quello che stava succedendo la prima volta dalla chiusura di Fico con quella del Grand Tour Italia, che ne venimo a sapere in radio da Farinetti, che lo disse scherzando, no? Così, basta, non mi piace più, adesso lo chiudo. Sì, ma stai chiudendo per quante persone? Stai chiudendo per quanti operatori? Quante famiglie sono rimaste a casa senza lavorare? Che avevate promesso 3 mesi e poi sono stati 6 mesi. A questa apertura avevamo fatto queste grandissime promesse, promesse che nel giro di un anno già 6 mesi tra regioni avevano chiuse. E a gennaio, non perché gli uffici l'avessero ammesso, non perché Farinetti l'avesse detto apertamente, no, per voci si viene a sapere che forse chiudeva tutto. E fa sorridere, fa molto sorridere. E questo che cosa implica? Che i miei stessi capi alla scadenza del mio contratto, invece di farmi il mio bene amato indeterminato, perché appunto io avevo passato da un indeterminato a loro, ha passato il primo anno, dovevano farmi un indeterminato, io non ho potuto continuare perché appunto gli era stato riferito che probabilmente sarebbe stata un'altra ulteriore chiusura. Chiusura che poi è stata confermata, tra l'altro. E che adesso ci ritroviamo con 2 regioni, nemmeno, perché è rimasto il ristorante del Lazio con Pasta Bologna, che bene o male non so quale manino avesse o organizzazione avesse, però Pasta Bologna erano gli unici che potevano ogni volta avere i catering per qualunque tipo di evento che si facesse al Grand Tour. Tutte le altre regioni venivano ignorate, tutte le altre regioni venivano messe in disparte per quelle che potevano essere le possibilità, che quelle poche tra l'altro possibilità che il Grand Tour poteva offrire, no, per far venire un'affluenza. Ed era imbarazzante. Siamo passati a dei periodi di vuotume dove il giovedì e il venerdì non passava nessuno e dei sabati e domenica in cui tu non riuscivi a respirare per il quantitativo, certo, di persone che c'erano e che ti stressavano da morire. Io mi ricordo, io mi vivetti quell'Halloween del 2021 dopo la riapertura, che si fecero tipo 3 milioni di persone, fu un booming eccezionale, no? Fu l'unica, perché poi passammo un'estate che non c'era assolutamente nessuno, sì. E quella volta me lo ricordo, clienti arrabbiati perché c'erano file enormi e il parco che non riusciva a gestire un quantitativo di persone così esagerato, che non è neanche ben diverso se dovessimo andare a vedere quello che furono tutti i risultati di Italy e dello Slow Food. Quindi lui ha riproposto semplicemente un mercato che aveva circa funzionato a Torino con tutte le derivazioni e le problematiche del caso. Lui ci parla di etica delle multinazionali, no? Quindi, ah no, prima non mi piacciono le multinazionali, no, ma poi facciamo le multinazionali etiche. E poi ti viene questo magico progetto del Grand Tour Italia, anzi di Fico, che di etico non aveva niente se non forse il nome. Non è stato etico il modo in cui si sia comportati nei confronti di nessun tipo di organizzazione, startup o di lavoratore, nessun tipo di rispetto. E l'etica di che cosa, quindi? Che cos'è l'etica, soprattutto? No, dizionario Treccani, che cos'è l'etica? Cos'è l'etica? L'etica si sviluppa, innanzitutto è una branca della filosofia, no? E adesso si sviluppa da quando? Addirittura dalla Grecia. ethos è una parola che deriva dal greco e poi anche successivamente dal latino, in teoria sarebbe un qualcosa che va, un'analisi dell'essere umano nella struttura della sua moralità e nella sua azione, ma che questa non dipende ovviamente tra i luoghi comuni, perché se ci dovessimo basare sui luoghi comuni, disse Hannah Arendt, si dovrebbe basarci quindi su che cosa? Sulla banalità del male. E quindi continuiamo a distruggere, uccidere persone in virtù del fatto che ce lo sta chiedendo il nostro regime. Quindi distruggiamo le persone, i nostri lavoratori, in virtù di chi? Per il mero denaro. Certo. L'etica col profitto non vanno d'accordo. Però io da chef tiro fuori questa grandissima etica di Farinetti e da pornatrice tiro fuori anche quella che è l'etica secondo cui io dovrei pagare una tassa del 25% in più rispetto a quelli che sono appunto davvero i miei guadagni, che anche questo fa abbastanza sorridere, vero? Infatti ho visto questa cosa, questa polemica in cui fondamentalmente vogliamo spiegare, io non sapevo, non avevo la conoscenza, che le pornatrici, quasi tutte, le vere pornatrici, uh-huh, non le creator, capito, hanno un codice ateco. Mm-hmm, ok. E che pagate le tasse voi fondamentalmente. Sì, sì, sì, ma allora, in realtà, di per sé anche la creator c'ha il suo codice ateco. Anche vero, no, sì. No, i creator in generale hanno i loro codici ateco e va bene così. Io come porno attrice non riesco a essere inquadrata effettivamente in un determinato tipo di codice e mi sta bene anche da questo punto di vista, perché ricordiamoci, siamo in Italia. Certo. Tante volte, nel senso che questo fumaggine sembra un po' fatta apposta, del tipo ti faccio la tassa etica, però se tu ipoteticamente ti dovessi inquadrare in un codice ateco che davvero non risulta rispetto a quello, però forse può essere che io non te la chieda, ed è la motivazione per cui nessuno si è mai posto fino ad oggi il problema della tassa etica. Perché? Perché all'improvviso delle creator che vendevano su OnlyFans gli sono stati chiesti questi soldi. Okay. Però facciamo un esempio, io che sono sia dipendente che freelancer, io ho una partita IVA appunto e ce l'ho da forfettaria, il primo anno ho pagato uno sproposito, sono sopravvissuta, ma io appunto pago rispetto al fatto di avere un lavoro pagato da dipendente e in più il mio reddito da partita IVA. Io tu non paghi mangio, le tasse, paghi sì, io pago le tasse, pago l'IMSS. E adesso ti chiedono anche la tassa etica. E adesso dovrebbero chiedermi la tassa etica. Personalmente, me la chiedessero, io non la pago. Cioè, è proprio un mio, lo dico proprio, è un mio principio, penso sia anticostituzionale. Quando un giorno me la verranno a chiedere, gli dirò: ah, tanto non ho neanche più un lavoro da dipendente, chiedimeli. Ah beh, funziona così adesso, no, giustamente, cioè, tu paghi le tasse, le paghi, io le tasse le strapago, come le strapago. E la cosa che mi fa impazzire di tutto ciò è che tante volte il pensiero ridicolo italiano si sviluppa su un'unica linea di pensiero, no, del tipo vabbè, ma per aprire le gambe. Ma io non apro solo le gambe, cioè apro anche le gambe, attenzione, apro anche le gambe, però c'è tutto un contorno di mezzo che è come la cucina. E ti dirò di più, questa è una massima che mi porto dietro tantissimo: come mi sono prostituita in cucina, non mi sono mai prostituita in un porno. È questo che mi preoccupa. Come sai? Mi sono prostituita al Grand Tour Italia soprattutto, cioè è quello il problema. Cioè io ho dato tutto, ho dato i miei sogni, ho dato le mie speranze, ho dato i miei progetti, ho dato veramente il mio sudore, le mie notti insonni per sfogliamo. Io iniziavo alle 7 del mattino e finivo anche alle 2 di sera, perché dovevo finire di fare le preparazioni, i tortellini e tutte le cose da battere per tutti i ristoranti che stavano lì dentro. Ero entrata da nemmeno 4 mesi e mezzo, non c'era personale, non c'era modo di sopravvivere a questa cosa. Questo è triste, da lavoratore dipendente ti dico, questo mi fa riflettere tanto, perché anche io in certo modo, io quando lavoro non è che mi pagano in denaro, mi pagano in tempo. Mm-hmm. Io vendo e ricevo tempo. Mm-hmm. Quando mi danno i soldi è tempo della mia vita che va via. È così. Infatti dovremmo ragionare innanzitutto su, non tanto sulla parte del corpo che noi stiamo utilizzando, ma esattamente il tempo e la fatica che c'è di mezzo. E mi dispiace andare in giro per il mondo, prendersi mille aerei e soprattutto prepararsi a farsi determinati tipi di scene, perché anche lì, ora noi non vogliamo andare troppo nello specifico, poi magari spaziamo un po' troppo. Certo. Ci mancherebbe, però nel mio caso faccio pornografia hardcore, e questo che significa? Che faccio dilatazioni importanti, magari si sta in scena anche 3, 4, 5 ore e non è facile prenderlo, scusatemi, in cu per tutte quelle ore, metteremo un bip e facciamo finta, però adesso vorrei essere davvero specifica per far capire. Sì, sì, cioè, ma... poi ti dicono, ma l'hai voluto tu. Sì, ma allora posso fare lo stesso discorso a quello che è andato in fabbrica, cioè, e ha un problema di scogliosi. Tesoro mio, ma l'hai voluto tu, potevi fare un lavoro migliore. Ma, ma non esiste, ma non esiste. Lo dicono e come? Cioè, una persona ha il diritto di curarsi. L'ho anche studiato, mi dicono, me lo dicono ancora due volte. Vero? Ecco. Anche a me mi dicono che dovevo studiare. Lo faccio, ma io veramente. Se potevi fare l'antropologa, no? Invece di fare. No, ecco. Ma poi ti dirò, sai che a breve può essere che magari mi metta a fare l'educatrice quasi. Ho solo paura che potesse succedere. Ti pagheranno due tasse etiche, dicono. Vabbè, comunque, dai, è stato bello parlare con te. Anche per me, grazie. Abbiamo più chiara la questione di finalmente del Grand Tour. Speriamo di continuare a mangiare i tuoi tortellini. Tortellini, tortellacci. Ricominciare a fare la chef qualche allora proposta? Io sì, nel senso, io non smetto nella cucina. Ottimo, la mia idea per adesso è passarmi questi 6 mesi un attimo d'assestamento. Sto traslocando, finalmente ho dei weekend liberi che posso utilizzare per fare spettacoli. Sicuramente integrerò la cucina con quello che sono davvero i miei spettacoli, cosa che già facevo. Quindi faccio show cooking, anche di tipo erotico, dove però la gente mangia davvero quello che io faccio. Okay. E quindi da qui in avanti è tutto un po' un divenire, facciamo così. Ma nella mia idea, a breve vorrei un attimo alzare proprio di livello. Il tuo locale. Non solo, anche imparare da qualcuno di più importante, certo. Magari, però sì, mi piacerebbe avere un mio locale, fare un po' una derivazione, mi piacerebbe un bar dei gatti, quei tipici cat caffè, ma anche un'enoteca dei gatti, assolutamente. Questa cosa del chilometro zero, del poter aiutare le oasi, mi piace molto. In Italia non lo sapremo, però ecco, chi vivrà vedrà. Noi ti facciamo in bocca al lupo. Grazie, mi aiuti. Grazie Nemesi. Grazie a voi. Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu, mi vedi solo come un mazzo di fiorini. Sono Ludovico, culto e mito, donne mi scansano come avessi avuto il tifo. Troppi affanni, a 30 anni ho perduto un dito. Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo. Se la mettiamo su questo piano, la mia vita ha senso, se la mettiamo su questo piano. Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda, canto l'inno alla gioia perché vedo l'abisso, ma su questo piano scrivo 1000 lettere e faccio rumore, lotto col silenzio ma ce la farò, tengo la mia musica e lascio l'amore, io sarò immortale e la mia amata no. Vorrei rimanerne fuori, ma il mondo vuole che vada in tour. Entro in classifica perché la fame è cieca, così cieca che in fondo non mi riguarda più. È un buon lavoro, incasso da molto, vale come un disco d'oro, in cassa da morto. Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e mi accorgo che sto fissando un foglio tipo carta da forno. Ehi, sono Marco, new romantico, sotto palco scompaio, puff come porotalco. Che guaio, bruciano il mio contratto, che il sound è cupo, rarefatto. Ho preparato un ritiro veloce, la mia famiglia è più importante di un giro di note. E questi parlano mentre io sto ricucendo la vita con un filo di voce. E non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo. Allora, abbiamo ascoltato questa puntata, siamo alla fine, alle conclusioni. Mi dispiace che sia solo collegato adesso. Andate nella pagina podcast del Pane e Rose, troverete la puntata in podcast. Guardate, una puntata veramente che mi ha colpito. Non mi aspettavo che andasse così, è andata così come doveva andare. Invece il Pane e Rose ancora oggi stupisce con questa puntata, perché siamo riusciti ad affrontare delle tematiche da un punto di vista completo. Io oggi ho intervistato una lavoratrice dipendente e una professionista, e ha spiegato come in questo paese oggi due lavori importanti vengono purtroppo tutti i giorni messi in discussione sia dallo Stato che dal capitalismo, perché lei come lavoratrice dipendente ha visto sulla propria pelle il lavoro intenso, lo sfruttamento, avere dei sogni, crescere per poi chiudere per colpa del capitalismo, così come la lavoratrice con la partita IVA ha visto delle tasse ingiuste accanirsi contro di lei. Bisogna cambiare. No, lei non vuole andare all'estero, lei vuole vivere in Italia e poter vivere, poter pagare le tasse, ma poter vivere la sua vita in maniera degna, in cui i suoi diritti sono rispettati, in cui l'etica, ne abbiamo parlato oggi dell'etica, l'etica non deve essere una tassa etica, l'etica deve essere una cosa che deve essere rispettata da tutti, dallo Stato, da tutti, che significa il rispetto delle persone, il rispetto dei lavoratori, i diritti delle famiglie, abbiamo parlato di questo oggi, e facciamo un bocca al lupo ai lavoratori del Grand Tour, speriamo che si risolva la questione, sappiamo che effettivamente siamo in una situazione difficile. Io spero che non si abbandoni quei lavoratori, che ci sia una ribellione, una vertenza che venga aperta sul Grand Tour, laddove ci dovessero essere licenziamenti. Oggi purtroppo stanno chiudendo alcuni ristoranti. Spero in qualche modo questi lavoratori vengano salvati. E l'augurio che ne facciamo sia io che Nemesi, e andiamo avanti sperando che questa società cambi. Alla prossima puntata.